metto dentro il pugno due foglie di tabacco e un po' di tè. La sabbia che ho sul collo confonde la mia voglia di caffè. Ho 13 anni, un pettine e una chiave. Ho 13 anni, una foto e un cannocchiale. Lo scafista intelligente taciturno vende la necessità di avere un sogno, dorme quando nevica, rimane sveglio, ama la politica. È un uomo colto il luogo delle novità, è pieno di giocattoli e di musica. Ci attendono sorprese ed opportunità, si va a voltare pagina. Nel paese immaginato non c'è polvere. L'uomo del giornale ha accettato quell'intruso in mezzo al mare. È stato circondato, braccato da un articolo pungente e minimale. Il telegiornale apprende la notizia in tempo reale. Scusateci il ritardo e i modi discutibili del viaggio. Di una scarpa, l'intreccio di una barca artigianale, cordiale alle sirene, cortese alle intemperie, al temporale. Ho 13 anni e questa è la mia nave. Ho 13 anni e sono su una nave. Il validore da lassù ci segue a vista, abbiamo pantaloni blu cuciti apposta per nasconderci col cielo color nero. Raccogliamo tutti i trucchi del sentiero, il luogo delle vanità ha una patina fatidica e nostalgica, nasconde la sua vera e propria identità dal retro di una maschera. Nel paese immaginario non vi è ruggine. Il giornale ha gettato lo straniero in mezzo al mare. È stato circondato, braccato da un articolo pungente e minimale. Il telegiornale apprende la notizia in tempo reale.